10. Il racconto di Amandine Aurore Dupin, detta George Sand. Mia nonna fu colei che mi diede l'anima e il nome. Ebbi uno spirito senza frontiere, amavo viaggiare e potevo vivere ovunque a patto di poter tornare di tanto in tanto alla mia amata terra madre, a Noa, nel Berry. La terra che mia nonna mi aveva lasciata, dalla quale traevo la forza delle radici e che in tribunale riuscii a riconquistare al marito che me l'aveva rubata. Quando una donna divorziava, a quel tempo, doveva rinunciare a tutti i suoi beni, anche se provenienti dalla sua famiglia. Naturalmente il giudice era lì per me, non per il marito che aveva amanti e spadroneggiava nella mia casa col mio denaro. Ma non potevo più mentire a me stessa. Io avevo scritto Lelia e con quel romanzo avevo scritto per le donne che pativano violenze domestiche, il manifesto della ribellione. E Indiana e Fadette e Marie, la protagonista della Palude del Diavolo, le fanciulle dei miei romanzi che erano la mia stessa voce, la mia stessa ricerca di una risposta d'amore alla tensione della mia anima. La mia infanzia era stata segnata da donne forti come uomini e io avevo appreso da quelle donne a dirigere la mia vita. Non trovai mai nell'amore di un uomo la risposta che cercavo. Con gli anni la cercai nei boschi, nelle amicizie, nel fiume Indre che attraversava le mie terre a Noa. Corambé, lo spirito dei boschi che evocavo nelle mie passeggiate quando uscivo a cercare erbe e funghi, fu l'unico compagno che non mi deluse mai. Decisamente, nonostante la mia nonna aristocratica, non riuscii mai a comportarmi da signora. Vi sono momenti in cui l'anima mia sorvola il piano fisico e si rende conto di quanto ancora nel terzo millennio troppi uomini siano terrorizzati dall'idea di mollare il potere. La maggior parte faticano a figurarsi che ruolo avrebbero in un mondo non androcentrico. Da troppi millenni essi si sono abituati a dominare e non c'è ragionamento che li possa convincere o tranquillizzare. A parole vogliono uguaglianza e parità, ma quando poi si tratta di lasciare le poltrone e andarsene, allora si proteggono accusando le donne di aggressività, di competizione, per rubare ed esercitare quel potere che invece loro hanno gestito così male e che malgrado ciò non hanno intenzione di abbandonare. Non riescono proprio, per la loro stessa conformazione biologica, a immaginare un mondo dove non esista il potere e dunque nemmeno la competizione, la supremazia, la sottomissione, la gerarchia, tutti i concetti che del potere sono figli. Amandine tacque e appoggiò la fronte alla mano. Sembrava stanchissima e rassegnata. Noi tutti avremmo voluto consolarla, ma eravamo coscienti che aveva ragione e che il cammino verso l'effettiva parità è ancora lungo, ammesso che sia possibile raggiungere una parità nella dimensione cosiddetta reale. Il mondo che chiamano reale esiste perché è continuamente alimentato dal binomio vittima-carnefice. La fine di questo binomio, sancita dalla fatidica parità, provocherebbe la fine del mondo come lo conosciamo. Cara, cara Virginia Woolf, riprese lentamente Amandine quasi tra sé e sé. Come comprendo in questo momento il tuo metterti i sassi nelle tasche e abbandonarti all'acqua del fiume. Il mondo è pieno ancora adesso di uomini come colui che fu mio marito, il quale non esitò a portarmi via tutto ritenendolo un suo diritto, o come mio genero, che sacrificò la vita della sua figlioletta, la mia adorata nipotina Ninì, per vendicarsi di sua moglie, di mia figlia. Entrambi fecero valere i loro diritti di maschi nel tribunale patriarcale ed entrambi si presero per semplice ostinazione, arroganza e vendetta ciò che non erano in grado di gestire. Mio marito mi privò della terra e della proprietà di Noah e la sua cattiva gestione lo portò a indebitarsi. Mio genero, per ripicca verso mia figlia, mi privò della bambina che era a me affidata, ma non sapendo come prendersene cura, la internò in un orrendo luogo di suore dove Ninì morì. Per mancanza di cure. In entrambi i casi la legge era dalla loro parte. Io ho vissuto queste ingiustizie sulla mia pelle e forse perché il dolore mi era rimasto impresso nelle cellule, continuo a vedere ingiustizie e abusi anche adesso che ho abbandonato quel piano di esistenza. D'altronde, Se una straordinaria sorella come Charlotte Bronte mi definisse sagace e profonda, allora sarà vero. Questo significa che ciò che vedo è reale e non frutto dei miei pregiudizi. A 27 anni lasciai quel marito che avevo sposato per poter salvare dall'ingordigia di mia madre la proprietà che mia nonna mi aveva lasciato. Col matrimonio sarebbe passata a mio marito, del quale tuttavia a quell'epoca mi fidavo di più e pensavo di amare. Ma lui cominciò presto e non ne fece mai mistero. A tradirmi con servette senza cultura e contadine sempliciotte era perfettamente normale per un uomo avere amanti. Lo lasciai, come ho detto, non per gelosia, ma perché non lo amavo né stimavo più. Era un buono a nulla, ubriacone, inetto, incapace di preservare il mio capitale, di cui la legge matrimoniale trasferiva a lui il possesso. Lui però non voleva concedermi il divorzio, non perché gli importasse qualcosa di me, ma perché non voleva che l'inevitabile scandalo macchiasse il suo onore. Fui giudicata in tribunale e i miei libri usati contro di me. In cambio della libertà dovetti lasciargli l'intera proprietà perché, secondo la legge, ero io che lo abbandonavo, non lui che mi tradiva. In particolare il mio secondo libro, Lelia, fu usato per provare la mia dissolutezza morale. Lelia infatti parlava dei diritti delle donne. In esso mi chiedevo perché le ragazze non ricevessero, riguardo all'accoppiamento, un'adeguata educazione dalle loro madri, che evitasse loro di rimanere terrorizzate di fronte alla umiliante performance sessuale del marito nelle prime tristi notti di matrimonio. Tutte siamo passate da quel vergognoso abuso, vero sorelle? Le nostre sorelle cinesi, nella loro elegante scrittura segreta Nushu, già da 2000 anni scrivevano il lamento della sposa per la giovane che convolava a nozze, perché sapevano cosa l'aspettava nell'orrendo sistema patriarcale confuciano: servire per tutta la vita tre padroni, padre, marito e figli. Perché, si chiede Lelia, le madri non preparano le figlie a ciò che le aspetta in camera da letto e si limitano a dire loro: tu fai quello che ti dice tuo marito. Perché le madri, che a loro volta erano passate da quel momento difficile e umiliante, invece di essere solidali con le figlie, lo erano con la moralità patriarcale? Sì, mi vestivo da uomo, come Colette e Coco Chanel. Ma lo facevo per essere più comoda, per poter uscire di notte senza essere giudicata una donna di malaffare e per poter camminare nel fango senza scivolare sui tacchi o sporcare lo strascico della gonna. Adottai uno pseudonimo maschile perché era necessario affinché i miei libri venissero letti. Tuttavia, le protagoniste dei miei romanzi sono sempre state femmine ribelli che trasmettevano un messaggio politico, tant'è che Lelia fu considerato il primo romanzo femminista. Fui longeva per l'epoca in cui vissi, probabilmente ciò dovuto al fatto che mi occupai talmente tanto degli altri da non avere tempo di ascoltare il mio corpo. Io non riposavo mai. Riportai le notizie più interessanti e veritiere su di me nella mia autobiografia, Storia della mia vita. Gli editori mi pagavano bene per svelare particolari della mia esistenza che la gente allora considerava piccanti e trasgressivi, e francamente a me non importava nulla di ciò che il popolino pensava di me. Avevo un'intera corte dei miracoli da mantenere, e poiché mio marito mi aveva portato via tutto, quei soldi mi servivano. Scrissi e parlai tanto di politica, ma una politica spirituale, davvero come la tua, Rosa. Anche io divenni un'icona del socialismo, tra virgolette, e tuttavia non mi schierai realmente né coi monarchici né coi rivoluzionari, sebbene più avanti negli anni, divenuta la famosa George Sand, ebbi abbastanza potere da contrattare con Luigi Napoleone la liberazione di tutti i miei amici socialisti che erano stati arrestati alle barricate durante la ribellione alla monarchia. Ma fu dopo la separazione dal barone Dudevant, mio marito, che cominciai a frequentare gli intellettuali socialisti. Li ospitavo e li mantenevo nella mia casa come una vera matriarca neolitica. Dopo il divorzio, attorno a me si radunò una vera e propria comunità di scrittori, artiste, musicisti, filosofi, figlie, amici e amiche che io mantenevo. Ecco perché mi servivano molti soldi E per averli mi sfinivo a scrivere una notte dopo l'altra. Però, di giorno, quanta allegria nelle nostre gite in riva al fiume, giocando con l'acqua, cercando erbe, divorando le fette di pane e pomodoro che la nostra buona domestica metteva nella cesta. E la sera, quando la mia più cara amica, la soprano Marie Dorval, si metteva al piano e cantava, noi ballavamo sfrenatamente intorno al grande tavolo di cucina, formando coppie e triadi stravaganti, mascherandoci e giocando a nasconderella in modo da farci scoprire subito come pagliacci per aumentare il divertimento. E che risate a tavola, davanti a una buona zuppa di funghi e a una, beh, in realtà più di una bottiglia di quello schietto vinello rosato del Berry. Spesso dormivamo insieme, tutta la combriccola sul grande tappeto davanti al camino acceso, ridendo fino a che il sonno ci prendeva. A volte Marie cantava per noi una dolce ninna nanna. Dormivo qualche ora, poi mi alzavo senza far rumore per non svegliare il resto di noi e andavo a scrivere. Amavo la mia piccola corte di geni tanto intensamente da desiderare solo poterla tenere con me, garantendole ogni giorno un pasto caldo e ogni notte un tetto e una coperta. Eravamo davvero una grande famiglia di persone, perfette l'una per l'altra, talentuose, geniali, artistiche, generose. Ah, davvero, che tempo meraviglioso trascorso a Noan. La critica patriarcale mi ha definita scandalosa, atea ed eretica. In realtà fui semplicemente libera e indipendente in una società di schiave. In un articolo un uomo mi ha definita una dissoluta lesbica che si sposò per interesse e che scriveva solo per i soldi. Ecco, questa è l'impostazione patriarcale che insudicia e distorce ogni nostra azione. Io, al contrario, avevo un concetto profondamente spirituale dell'amore. Sentite cosa scrivevo in Lelia. Dio, che ha messo l'amore e la voluttà negli amplessi di tutte le creature, non ha forse dato il discernimento a tutte? E l'essere umano, che è il più elevato, non avrebbe il sentimento o il sogno di questa unione necessaria dei sensi con l'intelletto? Questa incontestabile verità è così poco osservata nella pratica che le creature umane si uniscono e i loro figli nascono a migliaia senza che il vero amore abbia presidiato una volta su mille all'atto sacro della riproduzione. La legge divina è trasgredita ogni volta che un uomo e una donna uniscono le loro labbra senza unire i loro cuori e le loro intelligenze. Se la specie umana è ancora lontana dal fine cui possono farla aspirare le sue facoltà, questa è una delle cause più funeste. E ancora scrivevo nel mio capolavoro Lelia, per procreare non è sufficiente essere in due, occorre essere in tre. Un uomo, una donna e il divino in loro. Se il pensiero del divino è estraneo alla loro estasi, forse faranno una creatura, ma non faranno un essere umano. L'essere umano completo sarà creato soltanto dall'amore completo. Due corpi possono mettersi insieme per produrre un corpo, ma solo il pensiero può dar vita al pensiero. Quindi noi della libertà abbiamo soltanto l'aspirazione. Poiché siamo nati e nate da un atto cieco e passivo della volontà, operato da due corpi servili assoggettati alla schiavitù della carne. Quando un essere umano, uomo o donna che sia, si è elevato fino alla comprensione dell'amore completo, non gli è più possibile, anzi non gli è più permesso tornare sui suoi passi e fare atto di mera animalità. Ecco. Questo scrivevo io, la donna dissoluta e atea dipinta dalla critica maschilista. È abominevole come siamo state insozzate dall'ignoranza e dalla maligna rudezza della pseudocultura patriarcale. Ebbi molti amanti, Chopin, Mérimée, de Musset, Dumas, Flaubert, che mi delusero tutti. E fui amica di Balzac. Flaubert fu il mio ultimo amante e mi venerò come una dea. Ebbi una grande amicizia con Marie Dorval, la cantante. che fu catalogata come omosessuale dalla critica patriarcale, al pari dell'amicizia tra altre donne che in realtà cercavano la sorellanza. Penso alle sorelle Gabriela Mistral con Doris Dana, Hildegard von Bingen con Richardis von Stade, Virginia Woolf con Vita Sackville-West. Non è importante se siano state o meno relazioni sapfiche, io so che era la sorellanza manifestata. È parte del cammino spirituale di ogni donna risvegliata avere una speciale compagna che le mostri le sue parti oscure. La comprensione dell'amore completo. E non può che trattarsi di un'anima gemella, speculare dello stesso sesso. Tutti gli uomini mi delusero, ma non perché non mi soddisfacessero sessualmente, come insinua la morbosa e offensiva voce patriarcale, bensì perché in nessuno di loro trovai la forza virile, tra virgolette, e l'altezza spirituale di cui avevo bisogno per alimentare la mia anima. Quella forza virile che Charlotte Bronte vide in me, poiché all'epoca in cui ella visse la forza era considerata attributo solo maschile. Ora che non sono più incarnata, realizzo che fosse la mia massiccia attitudine di matriarca a far rimpicciolire gli uomini al mio fianco. Dopo la nascita della mia primogenita, Solange, feci un patto con mio marito. Volevo provare a vivere da sola e dunque avrei abitato 3 mesi a Parigi con la bambina e poi per 3 mesi avrei fatto ritorno a Nohant. Il barone però mi passava talmente pochi soldi che a stento io e Solange riuscivamo a sopravvivere. Come sapete, le leggi patriarcali stabilivano che anche quando i soldi erano della moglie, per dote o eredità, fosse il marito a disporne in totale libertà e senza render conto. All'inizio, per integrare il poco denaro, feci altri lavori. Cucivo, provavo a creare oggetti, ma senza successo. Mi accorsi quasi per caso che scrivere mi veniva più facile e che poteva rendermi di più. Fu così che iniziai, quasi per gioco, a creare raccontini per la Revue des Deux Mondes, la rivista fondata dall'amico Bulow nel 1829. E in poco tempo riuscii a mantenere me stessa, la figlia e i vari amici che mi si raccoglievano intorno, oltre a pagare i debiti del barone, mio marito. Nonostante fossi di famiglia aristocratica, dato che mia nonna discendeva dal re di Polonia, non mi piaceva fare la castellana e comandare sugli esseri umani. A Nohant ero generosa coi miei lavoranti e li pagavo più di quanto rendesse la tenuta. Così, per pareggiare i conti, rinunciavo a comprarmi abiti nuovi. Me li cucii da sola finché scoprii che gli abiti da uomo costavano meno e duravano di più. Dentro di me, nonostante il mio rango, pulsava il socialismo spirituale, cosicché non disdegnavo lavorare con le mani. Ero convinta che non ci fosse nulla di male nel lavoro manuale, nel cucire, nel coltivare l'orto, nel cucinare, nello sgranare i piselli per la zuppa. Si può trovare una sorta di tensione spirituale e di religiosità che non è per nulla sminuente. Era questa semplicità che amavano di me coloro che vivevano nella mia casa. Ora so che era quella l'economia femminile matriarcale, l'economia del dono e della condivisione risvegliata dalla sorella Maria. Quella stessa semplicità che tu pure provasti nella vita, sorella Gabriela. Pur avendo nella mia vita guadagnato molto, non tenni mai nulla per me perché donavo tutto. Anche io, come Balzac, scrivevo tutte le notti, ma diversamente da lui che sperperava tutto per i suoi capricci, io mantenevo la grande famiglia di Nohant. Secondo la legge dell'epoca, il barone mio marito era il proprietario dei miei figli. E il barone voleva che il mio adorato Maurice andasse in collegio. Ah, lo strazio di ciò che vidi quando lo accompagnai il primo giorno di scuola. L'architettura grigia, le grida disperate dei piccoli, le facce odiose di istitutori di ceto inferiore, il tamburo per chiamare a raccolta i bambini alla maniera militaresca. Bah. E la divisa vecchia e sporca che era già stata usata da altri e che per addestrare i piccoli a una vita spartana venne assegnata a mio figlio senza lavarla. Quale orribile veicolo di parassiti e infezioni. Le punizioni e le botte di fronte a tutti, l'assenza di vasi da notte unita al divieto di uscire per urinare, la somministrazione di pessimi dolciumi che facevano ammalare i ragazzi e marcire i loro denti. Quanto risuono con le amate sorelle Bronte che vissero sulla loro pelle l'indecenza di tali luoghi. La Lowood School, il tetro istituto in cui cresce Jane Eyre nel romanzo della sorella Charlotte Bronte, è la descrizione fedele della orribile Clergy Daughter School di Cowan Bridge, in cui quattro delle cinque sorelline Bronte furono internate dal padre, pastore protestante. Le condizioni di vita nel collegio erano talmente dure che le due sorelle maggiori, Maria ed Elizabeth, vi morirono neanche adolescenti. Quante di voi sanno che le sorelle Bronte erano cinque in origine? Quelle pessime abitudini dei collegi che invece di fortificare l'organismo minavano profondamente la salute. I giovani alunni erano infelici. Mio figlio vi stava malissimo, poiché in casa era stato abituato da me all'amore e alla libera espressione di tutte le sue qualità artistiche. E quando tornava a casa per il fine settimana lo lavavo accuratamente perché al collegio non veniva lavato. Soffrivo terribilmente per questa violenza che il mio piccolo Maurice, incapace di lottare contro il dolore, doveva subire per volontà di un padre distante e incurante. Fu lì che odiai Casimir, mio marito, non per ciò che aveva fatto a me, ma per ciò che stava facendo a mio figlio. Lottai in tribunale, lottai con mio marito e con mio genero per togliere loro i bambini, per toglierli alle loro assurde e dispotiche volontà di padri protetti dalla legge patriarcale. Convocai tutti i miei amici avvocati, li pagai, li implorai di trovare un modo, ma vinse la legge. Oh, mia piccola dolce Ninì, che vivevi felice a Nohant, da me amata e istruita, come ti piaceva seguirmi quando andavo in campagna a erborizzare, raccogliendo nel tuo cestino le erbe che ti indicavo e prevenendomi nello scoprire insetti e uccelli. E come ti impegnavi nel portare a casa le foglie cadute degli alberi per seccarle e incollarle nel grande quaderno che ti avevo donato a Natale. Per pura ripicca fosti rivendicata da un padre stupido, arido e incapace che non sapeva cosa farsene di una bambina. Lui voleva solo vendicarsi di tua madre. E così, mia adorata, finisti in collegio e vi moristi. Oh, il dolore atroce, l'impotenza di quei mesi ancora mi brucia il cuore. Sapere che Nini era dietro quelle orribili mura, sofferente e malnutrita, e non poterla portar via. Ah! Nessuna madre può reggere un simile dolore. Amandine singhiozzava e noi tutte con lei, completamente partecipi di quell'angoscia che non riusciva a lasciare andare. Passarono alcuni minuti in cui si sentiva solo il suo gemito. Rosa le accarezzava la testa e noi, sbigottite, partecipavamo in silenzio. Quando si calmò, quella donna massiccia come la montagna riprese a raccontare. Ebbi un cattivo rapporto, tanto con mia madre, una donna del popolo, materiale, avida e ignorante, quanto con mia figlia, frivola, viziata e superficiale, come suo padre. Ma con la mia Ninì, la figlia di mia figlia, avevo restaurato quella relazione privilegiata che salta sempre una generazione, nonna e nipote unite da un amore profondo e da un magico sapere come quello che aveva unito me alla mia aristocratica nonna Marie Aurore de Saxe, militante repubblicana. Colei che mi trasmise la conoscenza e la tenuta di Nohant, che comprendeva un castello, un bosco e una grande estensione di terra. Mia nonna era stata una libera pensatrice, ma la sua appartenenza a una famiglia nobile la mise in pericolo durante la rivoluzione. E infatti fu arrestata e incarcerata per 8 mesi, il che non le fece rinnegare la sua fede politica. Grazie a lei godetti di grande libertà. Mi vestivo come mi pareva, fumavo, davo del tu agli illustri personaggi che venivano a Nohant e soprattutto studiavo con un ottimo precettore, cosa che mia madre giudicava del tutto inutile. Quando morì la mia nonna, io persi la mia migliore amica e la mia protettrice. Immediatamente mia madre cercò di mettere le mani sulla tenuta e per salvarla mi sposai col barone che invece quasi riuscì a perderla per i debiti. Ah, dopo anni di lotte giudiziarie, riuscii infine a recuperare la mia proprietà, poiché Casimir la gestiva talmente male. da andare quasi in rovina. Gli proposi di restituirmele e andarsene via, vivere con i soldi che io gli passavo. Pagai i debiti e restituì alla tenuta il suo splendore e Noan diventò la comunità dove vivevamo tutti insieme in un'atmosfera di gioia, di scambi intellettuali e di creazioni artistiche infinitamente nutrienti per l'anima. Fu quello il tempo della mia grandezza, quando parlavo con Luigi Napoleone da pari a pari, come Hildegard con Barbarossa e Sabina Spielrein con Freud. Non fui cattolica, per me divina è madre natura. Professavo la spiritualità pagana femminina dell'antica Europa, quella delle erboriste e delle levatrici che a milioni sono state bruciate, quelle che sapevano far partorire le donne senza dolore finché non fu scritto il contrario nelle leggi patriarcali. La magia di cui parlavo era quella naturale delle sciamane, le mie fate, quelle che descrissi in La Coupe. Il mio libro, La coppa, il crepuscolo delle fate, non avevano nulla delle buone fate delle fiabe tradizionali. Erano esseri magici che proteggono i luoghi e i portali e che hanno il sapere delle origini. Donne che avevano scelto di bere la coppa dell'immortalità e di abbandonare tutto ciò che in loro era umano e caduco. La fame, il freddo, la fatica, per vivere nella saggezza e nel rispetto della natura. La rinuncia alla maternità e alla morte, sua controparte, era il prezzo da loro pagato. La morte è benedizione, è speranza, è passaggio della soglia per sperimentare quella rigenerazione sacra di cui le società matrifocali neolitiche erano coscienti quando onoravano la dea, nel suo aspetto di anziana guardiana della porta dell'Ovest. Ho sempre pensato alla morte come al più grande dei momenti iniziatici della vita. Non ebbi bisogno di ricevere una formazione esoterica e spirituale. Io già sapevo perché io ricordavo. E nei momenti di crisi facevo offerte a Corambè. Ero io Fadette. In quella favola iniziatica che scrissi, trasfusi il mio sapere sciamanico. Fadette, Fatina. Conosceva le erbe perché io stessa andavo a erborizzare. Era una ragazzina che come me viveva con la nonna e da lei imparava la medicina. Tutti gli abitanti dei villaggi limitrofi andavano a farsi curare da Fadette e da sua nonna, di nascosto, di notte. Alla luce del sole invece le disprezzavano, le chiamavano streghe e le evitavano. In un passo del romanzo descrissi in dettaglio una cerimonia sciamanica al chiaro di luna, molto simile a quelle della tua Mary Poppins. Pamela, come le tue, le mie fiabe erano tenebrose e salvifiche insieme. Amandine si voltò di scatto verso un'altra sorella non distante nel cerchio, quasi a volerla cogliere di sorpresa per evitare che si nascondesse. Costei rimase immobile per un lungo tempo. Poi liberò il volto dal tulle color malva, scoprendo lineamenti da fatina, proprio come Fadette. Sorelle, ecco Pamela, la cui penna creò quella grande sciamana maestra di esoterismo, viaggiatrice tra i mondi e guardiana della soglia che risponde al nome di Mary Poppins. Ti prego, cara, offrici il racconto della tua straordinaria vita e opera. La donna si alzò. Era sottile e aggraziata, ci guardò tutte con sguardo ironico e un po' diffidente, poi con le dita tracciò dei segni misteriosi nell'aria e disse qualcosa alle braci che risposero con uno scoppiettio. Certi segreti del fuoco non possono essere divulgati, state tranquille, sussurrò, e le braci si quietarono. Lei ridacchiò silenziosa, poi finalmente parlò. Ho fame, disse, e si guardò intorno per vedere se ci fosse qualcosa da mangiare. Ci rendemmo conto che tutte quante avevamo fame. Il pomeriggio era ormai avanzato e noi non avevamo più ingoiato nulla dalla colazione. Senza bisogno di parlare, ci alzammo tutte e dopo esserci sgranchite, seguimmo Gertrude nella tenda dove aveva sistemato le provviste. C'erano patate, formaggio, melanzane, pomodori, pane schiacciato, olive, cipolle e erbe profumate. Tutte insieme affettammo le patate e le melanzane, le cospargemmo di erbe profumate e le adagiammo a cucinare in un grande piatto di terracotta sulle braci calde. Quasi subito si levò un delizioso profumo. Aspettammo in silenzio, ciascuna assorta nelle sue riflessioni. Quando le verdure furono arrostite, le farcimmo con il formaggio che al contatto subito si ammorbidì. Mangiammo liete di gusto i nostri involti di verdure accompagnate dalle olive, da fettine sottili di cipolle e dai pomodori succosi, usando le fette di pane come piatti. Intanto il tè nero sobbolliva silenziosamente. Terminammo il pasto con piccole mele aspre, affettate e dolcificate con miele. Infine, rifocillate, tornammo ai nostri posti nel cerchio, pronte ad ascoltare la sorella Pamela. Lei si alzò e prese per mano un'altra donna corpulenta, unica tra tutte noi, completamente vestita di bianco. E insieme fecero qualche corto passo verso il fuoco, come una piccola danza. Nell'altra mano Pamela stringeva un paio di alucce di garza, simili a quelle che venivano fissate sulle scapole delle bimbe che interpretavano gli angioletti nelle recite di Natale. Talvolta mi piace ancora, ammise Pamela, travestirmi da fata. È la mia natura segreta. E di nuovo ridacchiò silenziosamente. Si fissò le alucce sulle spalle e si ricompose seriamente, come preparandosi per un comizio, ma con una luce divertita negli occhi. Ecco,